Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Martedì 11 gennaio, buongiorno, bentornati di nuovo a tutte e tutti su Liberi Dentro Eduradio TV. Se siete nuovi, benvenuti. Questo è un programma che fa da ponte tra carcere e città e che va in onda tutti i giorni, un'ora al giorno, su quelle che sono le nostre reti, Teletricolore, Lepida TV e Radio Città Fujiko. Io sono Caterina Bombarda, sono qui con voi questa mattina per mezz'ora, vi accompagno con le notizie che riguardano il carcere. A seguire ci sarà Antonella Cortese con notizie di cultura e società e notizie internazionali. E poi a seguire l'ospite di oggi, che per tutta la settimana è Aurora Dall'Oglio, che è operatrice presso il CEFAL Emilia Romagna. Ma partiamo subito dalle notizie di oggi. Firenze, teatro in streaming per un ponte tra carcere e città. È un bel titolo che mi ricorda un po' quello che facciamo noi. Questo progetto invece viene fatto attraverso il teatro, per l'appunto a Firenze, perché al Florida, proprio qualche giorno fa, è andato in onda, ecco, ha trasmesso per la prima volta lo spettacolo One Man Jail, Le prigioni nella mente. Il primo in Italia, pensate, a utilizzare le risorse digitali, e per questo così le persone detenute del Meucci di Firenze, grazie a questa risorsa, vengono materializzate in scena in tempo reale. E così si comprende anche un po' la sfida di questo ambizioso progetto, ovvero rompere le barriere, anche se virtualmente, per avvicinare i carcerati al mondo fuori, materializzando sul palco i giovani attori detenuti dell'Istituto Penale per Minorenni, il Meucci per l'appunto di Firenze. E questo è un progetto che parte da Firenze ed è l'unico show in Italia per il momento a utilizzare lo streaming per un progetto chiaramente alternativo di teatro in carcere. La prima assoluta, come vi dicevo, è stata sabato e domenica scorsa al Teatro Cantiere Florida di Firenze. Ma questo spettacolo si inserisce all'interno del progetto Streaming, che si intitola Streaming, un ponte tra carcere e città, ed è anche un percorso di educazione ai mestieri e allo spettacolo della performance tramite le tecnologie digitali, che si propone di mettere in contatto i giovani detenuti con la comunità esterna, ma anche al tempo stesso di offrire loro una formazione lavorativa per il dopo la pena. Per questo progetto è finanziato anche dal bando Giovani al Centro e rientra nell'ambito Giovani Sì, che è il progetto della Regione Toscana per l'autonomia degli under 40, e la produzione dello spettacolo è affidata alla compagnia Interazioni Elementari del regista Claudio Suzzi, che lavora in carcere già da diversi anni, dal 2002, e che ha lanciato Interazioni Elementari, che è una compagnia che vede la fusione di arti teatrali e performative, giocando appunto tra il rapporto tra la ricerca artistica e la società. E il regista si augura che questo spettacolo, che si intitola One Man Jail, Le prigioni della mente, possa girare il più possibile. Questo ce l'auguriamo anche noi, per poterlo vedere anche fuori regione. Con il collegamento live ci sono diverse opportunità, chiaramente si rende possibile la presenza di un incontro tra città e carcere molto più semplice e anche replicabile, e poi si punta a trasformare un'attività educativa come quella attraverso il teatro in una possibilità di lavoro. Ma poi c'è anche un altro ribaltamento, che è quello relativo proprio alla trama dello spettacolo. Il teatro diventa un carcere, il pubblico si trasforma in un gruppo di detenuti, mentre la prigione da cui realmente si trasmette simboleggia la mente del protagonista. Quindi la domanda alla fine di tutta questa avventura è: ma solo i carcerati sono prigionieri, o tutti in qualche modo, come ci racconta anche il mito greco, per esempio, siamo prigionieri di noi stessi? Ebbè, riusciremo a liberarci di noi stessi? Ognuno di noi ha un lato oscuro, alla fine, in fondo, questo è il messaggio finale di questo spettacolo, un lato oscuro di cui liberarsi e curare. L'obiettivo finale del progetto è di continuare questo percorso anche dopo il ritorno in libertà delle persone detenute, offrire loro una possibilità di lavoro. Questo ancora è impossibile per la mancanza di uno spazio dedicato, il fatto di lavorare anche dopo la pena, ma si spera che la Regione Toscana provveda a fornire anche un luogo per continuare questo meraviglioso progetto. Quindi il progetto di recupero attraverso il teatro. Tante volte ne abbiamo parlato su Edu Radio, scriveteci anche voi cosa ne pensate, voi che fate attività teatrale anche nei luoghi della detenzione, che siete appassionati già da prima o che vi appassionate al punto di volerlo continuare dopo, raccontateci cosa ne pensate, redazione liberidentro@gmail.com. Ma adesso una canzone prima di passare alle notizie internazionali e la cronaca con Antonella Cortese, Green Day, Good Riddance. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs in still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. But in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. Grazie Caterina, oggi voglio parlarvi appunto di Mariel Franco, un'attivista uccisa in Brasile nel 2018. È una storia emblematica attraverso la quale si può un po' conoscere qualcosa in più dei problemi del Brasile e delle battaglie della vita di Mariel Franco. Afro-brasiliana, Mariel era nata nella favela di Maré ed era un'attivista per i diritti umani delle persone LGBTQ+. E si batteva in prima linea proprio per denunciare gli abusi della polizia e le esecuzioni extragiudiziali e per difendere i diritti delle donne nere, dei giovani nelle favelas e di altre comunità emarginate. Mariel sentiva fortemente il senso di appartenenza e di comunità e aveva una visione sempre collettiva e mai individualista, sentimenti che trasmetteva con una frase che ripeteva spessissimo ed è questa: Eu sou o que nós somos. E non so se l'ho letta bene in portoghese, ma comunque vi racconto una piccola storia proprio su questa frase, un piccolo approfondimento. Un antropologo propose un gioco ad alcuni bambini di una tribù africana. Mise un cesto di frutta vicino ad un albero e disse ai bambini che chi sarebbe arrivato prima avrebbe vinto tutta la frutta. Quando gli fu dato il segnale per partire, tutti i bambini si presero per mano e si misero a correre insieme. Dopodiché, una volta preso il cesto, si sedettero e si godettero insieme il premio. Quando fu chiesto ai bambini perché avessero voluto correre insieme, visto che uno solo avrebbe potuto prendersi tutta la frutta, risposero Ubuntu. Come potrebbe uno essere felice se tutti gli altri sono tristi? Ubuntu nella cultura africana subsahariana vuol dire appunto io sono perché noi siamo, che è la frase di Mariel Franco. Ubuntu è un'espressione in lingua bantu che indica benevolenza verso il prossimo, ed è una regola di vita basata sulla compassione e il rispetto dell'altro. Ma torniamo di nuovo a Mariel Franco. Mariel Franco era membro del Partito Socialista e Libertà e nel 2016 era stata eletta al Consiglio Comunale di Rio de Janeiro. È stata uccisa all'età di 38 anni nel quartiere Estácio di Rio de Janeiro, la notte tra il 14 e il 15 marzo 2018, insieme al suo autista Anderson Pedro Gomes, e nell'agguato è rimasto ferito anche un addetto stampa. Quella sera Mariel era appena stata a un dibattito promosso dal suo partito presso la Casa das Pretas, la Casa delle Donne Nere, all'APA, per affrontare il problema della violenza contro le donne afroamericane nelle favelas. Sul luogo dell'omicidio sono stati trovati 9 bossoli calibro 9 e secondo i rilievi balistici i colpi sono andati quasi tutti a segno e pertanto gli investigatori ritengono che a sparare siano stati sicari molto preparati ed esperti. Un anno dopo l'assassinio sono stati arrestati 2 ex agenti della polizia militare con l'accusa di essere coinvolti e secondo le indagini Ronnie Lessa, agente in pensione, sarebbe la persona che ha sparato, mentre Elisio Vieira de Queiroz avrebbe guidato l'auto da cui sono stati esplosi i colpi. Non è stata ancora raggiunta né la verità né la giustizia e l'associazione Amnesty International, insieme alla compagna di vita di Mariel Franco, cioè Monica, e agli altri familiari, continua a chiedere un'indagine indipendente per far luce sulle vere responsabilità di questa morte. Dicono, non possiamo aspettare altri 10 anni prima che le donne nere vengano elette. Anzi, questa frase l'aveva detta addirittura Marielle poche ore prima di essere uccise. E il suo discorso è diventato un po' una profezia. Infatti, 2 anni dopo, nel 2020, alle ultime elezioni amministrative brasiliane, 13 donne nere sono state tra i candidati più votati nella più grande città del Brasile. Tra i consiglieri eletti, più di 70 si sono impegnati nella cosiddetta Agenda Marielle, che riunisce progetti di legge con pratiche e linee guida antirazziste, femministe, LGBTQ+, e popolari, ispirate al lavoro svolto appunto dall'attivista. Il messaggio di Mariel Franco, tra l'altro, ha fatto il giro del mondo e ha raggiunto anche Firenze. Pensate un po', il 15 marzo, del 2021, l'attivista è stata la prima donna brasiliana nera ad aver avuto il suo nome in uno spazio pubblico in Italia, sulla terrazza della Biblioteca delle Oblate. L'intitolazione è frutto della collaborazione tra CGIL di Firenze e la Casa do Brasil a Firenze, che hanno fatto richiesta al comune. E non è uno spazio qualsiasi, c'è proprio la vista sulla cupola del Brunelleschi, luogo simbolo del Rinascimento italiano. E lasciamo la storia bellissima di Marielle Franco per lanciare un pezzo brasiliano, ma prima vi dico che subito dopo il brano musicale ci sarà un'intervista a Aurora Dall'Olio, operatrice per esecuzione penale interna di Cefal. E ci ascoltiamo Elis Regina, Águas de Março. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, um nó da madeira, cainga, candeia, é uma tita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é o mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da cumieira, é a chuva chovendo, é conversa, ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, uma ave no céu, uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um pingo pingando, é uma conta, é um conto, é um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, o estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama, é um passo, é uma ponte, nas águas de março, fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de tudo, é um pouco sozinho. É uma cobra, é um pau, é João, é José. É um espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de tudo, é um pouco sozinho. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um belo horizonte, é uma febre terçã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de... E rieccoci, bentornati su Liberi Dentro Duradio TV. Per questa settimana l'ospite è un volto noto, lei è Aurora Dall'Olio, operatrice per CEFAL, che è la scuola centrale di formazione presso lo sportello di esecuzione penale interna. Ciao Aurora e grazie di essere di nuovo qui. Ciao, ciao a tutti, grazie a voi. Allora, dicevo che tu sei un volto già noto perché sei già apparsa su Eduradio, siccome ti abbiamo intervistata anche lo scorso anno. Ti sei impegnata già da 3 anni nell'ambito dell'area dell'esecuzione penale interna presso il carcere Rocco D'Amato di Bologna. Ma ti chiedo innanzitutto di spiegarci, facciamo un po' di spiegazione, che cosa sia l'esecuzione penale interna e in cosa consiste. Sì, guarda, in realtà è abbastanza semplice da definire, nel senso che l'esecuzione penale interna riguarda tutte quelle persone che per questioni legate a, appunto, vicende penali devono rimanere per un periodo all'interno del carcere. Non possono, si distingue dalla esecuzione penale esterna perché appunto queste persone non possono beneficiare di quelle che sono chiamate misure alternative, come l'affidamento ai servizi sociali, l'affidamento al lavoro, tutte quelle misure sempre di restrizione della libertà personale che però ti consentono di rimanere al di fuori di una struttura penitenziaria, appunto come è il carcere di Bologna. Quindi sì, semplicemente si tratta di persone che devono rimanere per un periodo più o meno lungo all'interno del carcere. E verso queste persone voi come operatori che cosa fate? Quali sono i vostri compiti? Noi lavoriamo come CEFAL da in realtà ormai 30 anni all'interno del carcere di Bologna sotto varie forme. Adesso gestiamo un vero e proprio presidio lavoro che si occupa di 3 cose principalmente. La prima si tratta di svolgere dei colloqui di conoscenza e di orientamento a lavoro per i detenuti, nel senso che le persone che entrano in carcere possono ovviamente svolgere vari tipi di lavori. E i colloqui che noi facciamo con le persone ci permettono di individuare quali possono essere le attitudini, insomma, cerchiamo di capire il più possibile quanto le persone possono ricominciare a fare quello che facevano fuori oppure cimentarsi in qualcosa di diverso, ecco. E oltre a questo organizziamo dei corsi di formazione professionale che svolgiamo all'interno del carcere, quali ad esempio corsi di addetti alla ristorazione, corsi di igienizzazione, corsi di sartoria. E in ultimo organizziamo dei tirocini formativi di cui forse parleremo un po' di più avanti, però insomma si tratta di attività per persone che possono uscire in articolo 21 in semilibertà. Aurora, tu sai benissimo, sai meglio di me che un problema ormai annoso in generale per le carceri sono i numeri delle persone in sovraffollamento, ma poi purtroppo di contro delle figure dagli agenti ai funzionari giuridico-pedagogici che sono invece scarse. Ma cosa ci dici di figure come la tua? Riuscite come operatori a venire incontro a tutte le richieste da parte delle persone ristrette? Mi piacerebbe poterti dire di sì, ma... Ma no, non sempre, nel senso che noi siamo 2 operatrici che entriamo in carcere da insomma ormai diverso tempo, siamo formazione a 2, ma ovviamente tutti i temi che riguardano il lavoro sono veramente molto pressanti. Inoltre, una cosa che forse è anche utile spiegare è che noi non siamo dipendenti dall'amministrazione penitenziaria, appunto noi entriamo come CEFAL attraverso finanziamenti del Fondo Sociale Europeo che transitano dalla Regione Emilia-Romagna. Quindi noi lavoriamo su finanziamenti molto specifici e su bandi, ecco. Quindi abbiamo un numero di ore chiaramente ridotto rispetto a persone che appunto sono dipendenti dall'amministrazione penitenziaria le nostre attività dovrebbero essere più possibile legate appunto all'attività che è prescritta dalla regione, ecco. Poi a volte magari ci espandiamo, insomma, cerchiamo di ampliarle, però diciamo che le nostre attività sono un po' più limitate rispetto a quelle che possono essere quei funzionari giuridico-pedagogici. Quello che noi facciamo è andare un po' a... che vorremmo fare è riempire i buchi, nel senso, magari un funzionario giuridico-pedagogico incontra solo i detenuti definitivi perché appunto non ha tempo di incontrare anche le persone che non sono definitive, invece noi possiamo incontrare anche le persone non definitive, ad esempio. Magari un funzionario non si focalizza sui temi legati al lavoro perché ci sono tante altre cose di cui parlare, udienze, avvocati, camere di consiglio, sintesi, eccetera, invece noi ci focalizziamo proprio su quello che riguarda le esperienze formative di lavoro svolte fuori, dentro altre carceri, per capire come potrei andare in continuità all'interno del carcere di Bologna. Quindi naturalmente il vostro lavoro è un lavoro di equipe con i funzionari giuridico-pedagogici, cioè vi passate le informazioni in base... Sì, esatto, c'è una bella collaborazione. Noi una volta al mese ci incontriamo con i responsabili dell'area educativa per poter insomma riferire dei colloqui che abbiamo fatto e capire come eventualmente supportare e collocare le persone all'interno del carcere, ma in più c'è uno scambio continuo tra funzionari giuridici pedagogici e noi, e anche agenti di polizia penitenziaria, esperti ex articolo 80, insomma cerchiamo di fare il più possibile rete per scambiarci anche le informazioni, perché appunto a noi mancano pezzi e a loro volta possono essere utili le informazioni che raccogliamo noi, quindi sì. Ti faccio una domanda. Come possono le persone detenute che ci stanno ascoltando in questo momento accedere al vostro servizio? Dove vi trovano all'interno dell'istituto? Sì, dunque noi siamo molto facilmente raggiungibili tramite istanze, le classiche domandine, nel senso che, infatti, lo sanno molto bene, i detenuti a volte ci riempiono di domandine, ne basta una sola, in cui fanno la richiesta di incontrare appunto lo sportello lavoro. E noi come collocamento fisico condividiamo l'ufficio con lo sportello informativo, che probabilmente avete incontrato su questi schermi, che sono i mediatori culturali e gli operatori dei nuovi giunti dell'equipe di mittendi. Quindi noi siamo collocati là dentro e però appunto siamo raggiungibili tramite domandina, spesso sono gli agenti stessi a segnalarci le persone o appunto i funzionari giuridico-pedagogici, psicologi, insomma siamo raggiungibili in moltissimi modi diversi, esatto, esatto. Un indirizzo email? Esatto, questo è molto utile anche per l'esterno, eventualmente lo sarà. L'indirizzo mail è presidiolavoro@cefal.it. Perfetto, Aurora, concludiamo la nostra chiacchierata, ma tanto ci vediamo anche domani con il lancio di una canzone. Tocca a te. Sì, benissimo, io sono sempre molto appassionata di musica e queste sono occasioni per me di cercare anche dei pezzi nuovi. E in questo caso io mi sono imbattuta in questo pezzo che si chiama Back in the Hood, di un rapper che si chiama Mac DRE, che è stato interamente registrato dal carcere di Fresno, nel senso che infatti si avverte, è registrato tramite telefono e anche è campionato all'interno della canzone la voce del centralino che dice appunto ti stiamo collegando col carcere di Fresno, e quindi per me questo è stato molto interessante, oltre che il testo anche è molto interessante di riflessione di che cosa vuol dire poi passare del tempo in carcere, quindi sono molto felice di proporla, anche perché è abbastanza vecchia, del 95, quindi insomma magari poteva sfuggire ai più. Questa è Back in the Hood di Mac DRE. Grazie Aurora, a domani. Grazie. I need to be free, steady dreaming about wrecking guts and cops, laying on my front, busting legs inside, selling young pop, front, locked in box, snoring motherfucker, I should just shout, and wake his ass up. south, way down south, when I need to be at home with a joint in my mouth. Smoking and choking, don't hurt your dick weed. I just can't make straight turkey dickhead. I need to be in the hood straight, swinging tight ones. Burn a long rubber on the black and white black ones. White. Black and white ones. E rieccovi, bentornati. Dopo aver ascoltato l'intervista a Aurora Dall'Oglio del CEFAL, vi annunciamo la rubrica a seguire, che è continua, insomma, dalla settimana scorsa con questa giustizia riparativa, il cosiddetto dialogo impossibile, che noi abbiamo trasformato in rubrica per parlarne per l'appunto con gli esperti del settore. Questa volta Antonella Cortese ha intervistato Max Ravanetti di Parma, che da anni si occupa di questo tema. Scriveteci redazioneliberidentro@gmail.com e come al solito un saluto da me, che sono Caterina, Antonella Cortese, Diana Bota, Nea Flacco, e ci rivediamo domani. Grazie mille. Liberi Dentro e Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.